Italia in controluce. Buongiorno, ben ritrovati con Italia in controluce che per questa puntata sconfina all'estero. Eh sì, perché anche se solo nominalmente oggi ci occupiamo di un fatto europeo, parliamo di Europride, una serie di eventi e di manifestazioni del mondo gay e lesbo a livello europeo e che avranno quest'anno a Roma un momento clou con la parata dell'11 giugno. E allora facciamoci portare dentro il mondo dell'Europride da Daniela Binello. Europride o Europride? Se lo diciamo all'italiana va bene Europride, se vogliamo essere un pochino più precisi Europride è decisamente più internazionale. Allora in questo momento si potrebbe dire che Roma sfida Milano? In questo momento Roma fa qualcosa di più, sfida l'Europa, ha la possibilità di mostrarsi dal punto di vista del riconoscimento, della visibilità dei diritti delle persone gay, lesbiche e transessuali, quindi del Pride, all'altezza di città come Parigi, come Madrid e come Berlino. Cioè le sfide europee a Roma fanno bene. Nel caso specifico è un modo anche per scoprire se questa città è così inclusiva come io personalmente sono convinto che sia, pur avendo delle sacche di intolleranza e di estremismo che speriamo non abbiano più modo di farsi vive. Il presidente di Arcigay, Paolo Patanece, ha spiegato che Europride è il più grande evento di cultura omosessuale che avviene ogni anno in una città dell'Europa. Questa volta un'attenzione particolare è rivolta alla famiglia. Com'è nato il desiderio di maternità col tuo compagno? Tanto di paternità. Io non ho mai pensato di diventare padre. Era Tommaso che per lui è sempre stata una cosa importante. E allora parlandone insieme ho capito che poteva essere una cosa possibile. Noi siamo diventati genitori grazie a una gestazione per altri, anche conosciuta con un termine che non ci piace molto, utero in affitto. Dove avete dovuto andare? In California, dove è assolutamente legale. E abbiamo conosciuto tramite un'agenzia Nancy, che è una donna che io definisco splendida, una persona che ci ha veramente aiutato tantissimo e ha portato la gravidanza dei due nostri bambini che sono lì Andrea e che hanno ora 5 e 3 anni. I vostri due figli come vi chiamano? Papà. Quando siamo in due ci chiamano Papacco, me, che è Papà Franco, e Patò, Tommaso, il mio compagno, che è appunto Papà Tommaso. In che modo gliel'avete spiegato? Andrea ancora capisce un po' meno, fa 3 anni ad agosto. E a Lia gli abbiamo detto che come coppia i suoi due papà sono una coppia sterile, che non siamo sterili come individui ma siamo una coppia sterile e abbiamo avuto bisogno di aiuto. Per cui abbiamo chiesto aiuto a una signora che ha donato un suo ovino e un'altra signora che ha messo a disposizione per noi la sua pancia. E se lo raccontano agli amichetti della stessa età? Guarda, proprio oggi che andavo a prendere all'asilo l'ho incontrata lei con la sua amichetta, la nonna dell'amichetta, e gli raccontava delle famiglie arcobaleno e gli diceva della nostra associazione, appunto Associazione Famiglie Arcobaleno, che è un'associazione nazionale di genitori di coppie gay e lesbiche con figli, e gli raccontava come era formata l'associazione, con la bambina assolutamente disposta ad accogliere questa realtà e con la nonna molto perplessa, che mi diceva non è possibile che non ha una mamma perché io sono biologa e le mamme ci sono. E io spiegavo a questa nonna che lei aveva una madre biologica ma che non era la sua madre affettiva, psicologica, non era la sua madre sociale. Lia non ha una mamma. Dal punto di vista del suo immaginario, l'affetto, la cura, ce l'ha attraverso i due papà. Paradossalmente i bambini lo capiscono molto molto meglio, gli adulti fanno un po' fatica. La storia di questa famiglia arcobaleno, come ci ha raccontato Gianfranco Goretti, uno dei due papà di Lia e Andrea, che adesso hanno 5-3 anni, probabilmente fra qualche anno sarà più comune. Ma in Italia, per il momento, i figli di genitori gay non hanno parità di diritti con i figli di coppie eterosessuali. Possiamo? Grazie. C'è pure la birra. Insomma, l'icona è Lady Gaga, ma direi la Gerini. Vabbè, siamo due insomma interpreti abbastanza così diverse. Sono contenta di poter rappresentare in qualche modo, no, questa festa dell'amore, di libertà. Come è nato questo amore? ma più che altro, diciamo, non mi ricordo un momento in cui ho iniziato ad avvicinarmi. Per me c'è sempre stata questa cosa. Poi io sono figlia di genitori molto giovani che frequentavano comunque discoteche. Mi ricordo questo famoso alibi degli anni 70-80, insomma, quando proprio appena nate, mia mamma era giovane, ci portava, avevano moltissimi amici omosessuali. Secondo lei la comunità omosessuale è veramente discriminata ancora oggi? Sì, nel nostro paese sì. Io non credo nella parola un po' minoranza o diversità, credo nell'unicità poi di tutti quanti noi e della pluralità di personalità e di caratteristiche. Quindi io credo che però in Italia siano ancora molto penalizzate, c'è tanto, ancora tanti pregiudizi e siamo un po' nel terzo mondo rispetto a tanti altri paesi europei. Dopo Claudia Gerini non poteva mancare a Europride la pioniera della trasgressione, Donatella Rettore, che è stata ed è tuttora la nostra Lady Gaga. Sono molto gay, non so perché, ma sono nata così. Mia madre ha sempre amato i pittori, gli artisti, e io le sono andata dietro. Apertura totale per il benessere totale delle persone, open minded. Fino a che morirò io avrò sempre la testa aperta verso tutte le scie, tutte le novità e comunque i desideri comuni. Perché non le piace? Ah no, perché? Non è una TV, è una radio, non la vedono. Perché io non ho niente contro nessuno, però penso che stare in un recinto non va bene. La cosa deve essere aperta a tutti, capito? Perché per me sono come me, io sono come, cioè tutti siamo uguali, no? Quindi fare una cosa espressamente solo per questo non mi piace, tutto qua. Perché ha detto alla sua amica che è razzista? Perché ha detto che non voleva stare, che il contesto non le piaceva, e allora per questo... Per lei questo è un recinto, non un modo anche di spiegare? Al Colosseo, dove c'è quella strada dove ci sono tutti loro, non lo trovo giusto, non per me, ma proprio per loro, perché devono stare fra tutti, capito? Per questo, invece... La manifestazione è bene che sia circoscritta per non disturbare anche le persone che stanno vicino. Io dico proprio quello, perché gay pride, come cavolo si dice. Ed è tutto anche per questa puntata. Continuate a seguirci e scriveteci le vostre storie. Controluce@radio24.it. Buona giornata.